anni Capri 2. Attento Gianni Capri 2, cambio Gaffaro 10, ciao, buonasera, ben ascoltato, dai, sto andando con quella radio che ti ho detto, micro cornetta e niente, tutto qua, cambio. Ehi, gli ho mandato anche il video a tuo padre, la foto della radio e il video come sto parlando in piedi con la micro cornetta, ho mandato un po' a tutti, no, è molto bella, veramente molto bella. Esce veramente bene, c'è una recensione da favola, nonostante abbia il parlascolta dalla microcornetta, sento anche la mia voce, bella, bella forte, bella pimpante, e poi tu arrivi magnificamente bene, perché c'è anche i decimali, c'è tutto, capito, esce veramente bene. Ti ho collegato stasera, perché stavo aspettando a Gianfranco che mi desse delle direttive dove collegare l'antenna, perché c'è il connettore BNC, capito, quindi non volevo sbagliare. A te, K. Sì, no, in SSM c'ha 100 watt, in AM c'ha 25 watt, come si chiama? Klasman? Klasman, com'è la sigla? Aspetta, la sto cercando, Guarda, dille a guardare il video a tuo padre. Sì, ti ascolto, stavo guardando su internet, inglese, non lo so, comunque esce veramente molto molto bene. Cazzo, è passata una tromba d'aria ai punti, ha distrutto tutto, in 5 minuti mi stava facendo Massimiliano su WhatsApp, allucinante. Io già ho la rotazione militare, praticamente c'è la radio con la sua microcornetta, c'è lo zaino portatile con la batteria esterna da 24 volts e poi c'è l'antenna telescopica che si giunta praticamente a molle, no? Si piega, si tira, si piega elemento per elemento, poi si sfila e diventa lunga lunga e la innesti dove c'è il suo connettore, capito? Te la porti a spalle. C'ho tutto, in dotazione di questa io ho tutto il kit che mi ha dato, nuovo, capito? Poi non lo so se c'è qualche altra cosa, ma penso di no, perché non è così completa, insomma, c'è la microcornetta, c'è tutto il kit spalleggiabile, insomma, c'è la batteria esterna da 24 volts, c'è tutto, quindi, non lo so. Cazzo, ma mi sembra di essere al telefono, capito? È una cosa bellissima, non avevo mai provato questa sensazione. A te, Gianni. C'ha la M, c'ha il CV doppio stretto, CV doppio largo, SSB, e poi c'ha un'altra banda che non ho capito, ma devono essere bande VARC, qualcosa del genere, capito? FM non ne ha, la M ce l'ha, ed è per me molto interessante, perché, ma poi è facilissima anche da usare, perché c'ha le bande separate, quindi non ha il frequenzimetro, ma comunque c'ha tutti i numeri dove tu ti puoi spostare, capito, sugli hertz kilo, hertz mega, hertz, non c'è problema, c'è anche l'ultimo decimale, c'è lo smitterino anche rotondo, è che non si illumina, però è chiaro che questa radio non si deve illuminare, perché altrimenti ti sparavano se vedevano luci, capito, quando ce l'avevi a tracolla. Però come vedi è funzionante al 100%, sono molto contento perché è funzionante, almeno non è un pezzo così da museo non funzionante, invece perfettamente funzionante, infatti sono 25 in AM e 100 in SSB, capito? Perché è un decametrico, quindi funziona così. A te ancora. Non ho capito, come si chiama? Ok, no, ma neanche io, ne ho visto tantissime, però così non l'avevo mai vista, poi con la frequenza addirittura così, capito, non l'avevo mai vista, la verità, però chi me l'ha data è molto esperto, quindi lui sa dove andare a trovare queste cose, ed è molto bella, sì, adesso le farò dare una rinfrescatina. devo andare prima da Roberto a vedere un po' cosa possiamo fare per il colore, perché la voglio fare uguale, verde militare. E niente, tanto coperchi non si possono togliere, quindi si isola tutto il frontalino piano piano, e poi si dà una strozzatina leggera sopra i lati e sotto, capito, giusto per togliere questi graffi che ci sono causati da questo cacchio di seggiolino portatile, perché era incassata lì dentro, capito, tolto le viti, l'ancoraggio e basta il portantenna e la batteria che l'ho conservata. Ma adesso la sto provando così, diretta a 12 volts, però domani mi collego alla batteria sua e la provo con la batteria sua, capito, per vedere quanto dura, quanto non dura, eccetera, se è una cosa fattibile, capito. Già, a te ancora. No, ma noi non dobbiamo aprire niente già, no, ci sono 200 viti di quelle, sembra anche stagna, mi sembra, a quanto si vede, mi pare anche stagna questa radio, quindi sarà un sommergibile, cosa vuoi ti dica? No, niente, faccio isolare bene dal suo carrozziere il frontalino di davanti, con un altro gommato, ben fatto, ben messo, e non togliamo neanche i pomelli, niente, le faccio una rinfrescatina sopra sotto ai lati e basta. Tolgo il portamicrofono, che quello lì è nero e deve rimanere nero come originale, boh, capito, già, stacco il microfono, tutte quelle cose lì si possono staccare, l'alimentazione, quelle cose lì si possono staccare, però per il resto non tocco assolutamente niente. Oh, ci mancherebbe altro, ma stai scherzando. Scusa, mi stavo prendendo il portacene. Quindi confermi che sono stagne queste radio, perché è fatta in una maniera molto molto particolare, c'ha mille bulloncini, dadini contro dadini, è chiusa, si vede che è chiusa ermeticamente, capito? Ah, ecco, avendola sullo zainetto, alle spalle se si bagnava, ma perché si vede, capito? Me ne sono accorto, è fatta in un sistema molto ermetico che sicuramente è stagna, ma poi chiederò a chi me l'ha data per vedere se è così, ma in ogni caso mi sembra proprio così, capito? Ascolta, la modulazione è buona, quindi me l'hanno già fatto ascoltare, è buona, io sono normale, come quando stai telefonando con una cornetta normale del telefono, sono così, molto molto tranquillo, due tre dita dalla capsula microfonica praticamente, capito? Com'è la modulazione? Buona. Oh, c'è qualcuno sotto che sta modulando, forse c'è qualche camionista in arrivo a Sassari o fuori Sassari, non lo so. Poi c'è una ricezione favolosa, anche perché io tenendo la microcornetta in mano vicino all'orecchio, ma me la devo allontanare perché c'ha un ricevitore fantastico, il volume è proprio al minimo, sento proprio, percepisco le voci molto, molto vicine, capito? Sì, beh, sul coperchio superiore c'è uno schema, però è tutto nero, capito? Quindi quello lì va isolato, per bene, va fatta una cosa fatta bene, tanto è vero che mi dedico a darla, cioè la do a un carrozziere, a uno che è esperto in materia, nel senso che sa quello che deve fare, insomma, come si isola, come si fa, perché altrimenti fai delle cagate. Sì, c'ha delle targhette sopra, c'ha delle cose che non bisogna cancellare, poi frontalino c'è tutta la serie, appunto, della radio, diciamo, e col serial c'è scritto la matricola, tutte le cose, ecco. No, eccezionale, dai, va bene che va bene. Adesso diamo priorità anche a questa, così così iniziamo a farci ascoltare con la vera voce naturale. Tutto in dotazione, c'ho Gianni, c'ho tutto in dotazione. C'è la sua antenna esterna per mettere a tracolla, che va innestata dentro lo stub che c'è in dotazione lo stesso, poi c'è il cestello dove tu attacchi a lei, poi sono le bretelle, tutto. L'alimentatore suo esterno a 24 volt per portarla in giro, capito? Questa è bella perché quest'estate me la porto al mare, capito? Me la porto al mare, non sto lì a fare tanto casino. Mi siedo, la metto lì, accendo e vamos alla playa. Vabbè, ma se non c'è lui cosa fai? Dammi un minuto già che mi sta chiamando secondo mia moglie. Arrivo subito, eh. Eccomi Gianni, scusa che lo sai che sono ancora un po' incasinato con mia moglie, con questa operazione che ha subito, ancora siamo così, dai. Il 4 di siamo a gennaio, quindi il 4 di dicembre ancora, nonostante gli abbiamo tolto i punti, tutte le cose, è ancora in convalescenza, le fa male quando appoggia il piede, c'era ancora gonfio, insomma un casino. Sta facendo la fisioterapia, sta facendo tutto, però boh, non capisco ancora come mai non si riesce a togliere i piedi, proprio nel vero senso della parola. Lei ha detto che bisogna aspettare, bisogna fare, boh, non lo so, vabbè, comunque. Vedremo Gianni, a te ancora. Tutto perché gli hanno dato un foglio da seguire, la terapia e tutto, capito, delle creme, cremine, addirittura sta mettendo dell'argilla sopra, degli impacchi tutti i giorni, fa questi impacchi, c'è una rottura di balle che non ti dico Gianni qua, veramente. Anche perché il poverino è sempre a casa, non sta uscendo, vorrebbe uscire, andare a fare la spesa, fare due chiacchiere con le sue amiche, non sto andando da nessuna parte. Stiamo facendo tutto io e mia figlia e basta, però mia figlia è anche impegnata al lavoro, poi c'è al bar, quindi sai, è un casino. Sono un po' incasinato in questo periodo, tutto qua, però passerà, dai, tanto tra Covid, questa pandemia del cacchio e i problemi familiari che ci sono, insomma, cerchiamo di risolverli così piano piano. Gianni, a te. Sai quante, tantissime. chiusa era, era tutto verde, lo stesso, quasi quel colore tipo militare. Lo stesso avevo dato, e ne ho dato tante, non è che ho dato solo a te, a Roberto, ne ho dato anche altre, ne avevo una casa piena di vintage, però allora facevo più attività amatoriale, quindi praticamente non avevo molto posto, non avevo molto posto, adesso l'attività amatoriale abbandonata, ho venduto tutto e quindi mi sto dedicando nuovamente ai vintage, ai baracchini belli, base, e mi è capitata questa, ma questa è rarissima, questa penso che non sia molto commerciale, c'era pochissima gente questa, se non nessuno perlomeno. Va bene, a te ancora Gianni Gappa. Già lo so, questa pandemia, questo Covid ha un po' messo in difficoltà tutti un po' gli imprenditori, tutta la parte economica e commerciale che sta andando un po' in calo, e tu immagina mia figlia che ha iniziato a giugno praticamente a lavorare, capito, è iniziato a giugno, quindi tu immaginati, siamo a gennaio all'inizio dell'anno successivo e già con queste restrizioni, con queste chiusure che ci sono state di 15 giorni più 40 giorni a casa, aveva appena iniziato a lavorare, quindi è un casino, non voglio parlare di questo perché veramente è una cosa triste, ma non solo per me, perché mia figlia appunto è nel settore ristoro, ma un po' in generale, Gianni, capito? Un po' in generale è un casino, vabbè. E cosa vuoi che ti dica? Passerà, dice quello, ci cantiamo la canzone, passerà. La chiusura dei circoli ha creato un sacco di problemi già, parecchi, perché è una cosa che non capisco, cioè stai lasciando il bar aperti, lasci anche i circoli, però quello che praticamente riesco a capire io è perché i bar pagano le tasse, quindi al governo entrano soldi in una maniera o nell'altra, anche con delle restrizioni minime, mentre i circoli, che sono delle associazioni, chiamali come vuoi, sono delle associazioni, a livello, ce ne sono tante a livello sportivo, culturali, insomma eccetera, quelli non pagano niente e quindi li hanno chiusi, ma non è una cosa giusta, perché chi ha un circolo ha sempre un'attività commerciale che fa parte del ristoro, anche se non paga le tasse, ha le sue spese, perché ha la luce, ha al telefono, magari c'ha internet perché c'ha il collegamento per Skype per le partite, c'ha l'acqua da pagare, c'ha il personale da pagare, c'ha l'affitto da pagare, cioè una cosa che non capisco perché i circoli li hanno chiusi, sono già 3 mesi chiusi, così è, non c'è niente da fare, allora devo fare una prova, questo è a 8, vediamo, così a 9, load, non capisco, vabbè, devo sentire Gianfranco a vedere cosa sono questi pulsanti, mentre questo è LP, HP, ah ecco, in HP aumenta il segnale, ancora di più, guarda, AC picchiaro. Hai visto già? Guarda lo smitter, fai la cortesia che è importante, così so le manovre, allora così è in HP, deve essere alta potenza, e così, guarda Gianni, così è in alta potenza, guarda, stai guardando? Perché ho sbagliato, allora guarda, così è in alta potenza, perché HP, alta potenza, guarda bene il segnale, adesso metto in potenza minima e mi dici se il segnale si abbassa. Ok, però mollo la portante. Ora, allora guarda, così invece in potenza minima, c'è noti differenza? Io quando arrivo, buonasera, Gianni KP2. Eia, va bene, ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. No, perché mi sono accorto che c'è due potenze, hai capito? Cioè LP e HP, quindi adesso l'ho messo in HP, che è in alta potenza, e sto dando esattamente quasi 50 watt, quasi 50 watt, 30, 40, dai, una quarantina di watt. Mentre in potenza minima ne dà 25, 20, 25. Ok, avanti Gianni, suonando sempre col sottomarino qua. Sì, ma già va bene, è bella squillante la modulazione, già va bene. Gianni, quanto ti sta arrivando il segnale? Capacchi tu sei circa 9-10. E adesso come sta arrivando? Adesso ho provato ad attaccare, come arrivo? Eia, va bene, va bene. No, ma Claudio mi stava dicendo, mi sto ascoltando. Il problema è già che quando parlo mi avvicino la cornetta all'orecchio, come al telefono, mi sento la mia voce e divento sordo. E praticamente mi stava dicendo Claudio già che quel pezzo di plastica l'ha spezzato, quindi se l'altra che hai montata è così, dovevi rinforzarlo prima di montarlo già, magari farle qualche anello di coso messo all'interno, capito? Cercare di rinforzarla, fare qualcosa, perché se è debole lì, l'antenna è abbastanza robusta, se l'ha spezzata lì già una volta, in quel coso lì, in quel... porca miseria, chiamiamolo connettore, chiamiamolo cos'è, supporto eccetera, quello va rinforzato già, ho fatto un anello di rinforzo e messo all'interno di quel bocchettone, altrimenti te la rompe di nuovo, capito? Oppure fai qualcosa con dei tiranti, fai una cravattina piccolina, a centro stilo, le metti dei tiranti leggeri di nylon, in modo che il centrale non fretta molto, altro non puoi fare. Avanti, doppio room, qua sommergibile, cambio. E chi è questo? Perché questo splatter non ne prende, non si sente la mosca a volare. Gianni, tu li senti questi in FM? No, doppio, tu li senti in FM? Claudio, sono al telefono. Gianni al telefono, vabbè, non c'è problema Gianni, fai tranquillo, ti ho rilanciato, no, non mi sono reso conto, come ho sentito gente sotto in FM, pensavo che stavi ascoltando loro. Sì, diciamo, infatti, cioè, se il problema è nato lì, che praticamente la spezzata lì dove è giuntato, Claudio mi ha detto appunto che c'è un mozzo di plastica e l'ha tagliato di netto, l'ha spezzato, e lì qualche rinforzo bisogna farlo, cioè per non creare magari, perché quello si è spezzato, con l'oscillazione dell'antenna, le raffiche di vento erano molto forti, quell'antenna non è come la Mantova, è un po' debole, perché si vede, il tubo centrale non è grosso come quello della Mantova, quindi è chiaro che se il vento è molto forte l'antenna ne risente tantissimo. Per far sì che non ne risenta, vedi, anche se non è una cosa fattibile, perché non si anella mai, non si tiranta, cioè tiranti non se ne mettono allo stilo centrale. Meglio non metterne, però se può essere utile, giusto per non flettere molto, le fai quattro tirantini piccoli di nylon fine, proprio dove c'è il pezzo più debole, in modo che non fretta molto, ma è più fattibile farle una correzione, un rinforzo di correzione lì su quell'anello che mantiene lo stilo centrale già. E a voi me la ricordo, io ho avuto per anni la Super Rangibus, che era simile alla Mantova, aveva, poi figurati, io quando abitavo a Porotose, mia madre abita nel lungomare, perciò a voglia raffic anche di maestrale, di Levante da Sentino, era un po' più riparato sull'Ibecio, ma Levante, Ponente e Maestrale erano all'ordine del giorno e quindi ha durato tantissimo. Poi io l'avevo lasciata lì per mio fratello, per modulare lui, e invece aveva tolto tutto, no? Non so manco che fine abbia fatto quell'antenna, penso che l'abbia regalata a qualche CB di Porto Torres, perché poi io mi sono sposato, sono venuto a Sassari e ho montato subito la Mantova 1. E ho sempre continuato con la Mantova 1, Mantova 5, poi avevo comprato la Mantova Turbo, non mi piaceva, l'avevo tolta, l'avevo regalata, mi sono ricomprato la Mantova 1 e sto continuando sempre con quella. È un'antenna eccezionale, un'antenna robusta, un'antenna che non ti crea problemi, chiaramente tutte le cose vuole fatta la manutenzione, io tutte le estati la abbasso, la pulisco, la faccio, la lubrifico e poi la rimonto su e funziona sempre perfettamente bene. Vediamo un po' se Gianni si è sbloccato dal telefono, ma penso di no perché lo so, e altrimenti riprendi tu. Doppio, vai già, riprendi tu, dai. Gappa, sì, qualcosa, un anello di legno duro, di un materiale di legno duro, qualcosa di teflon, di PVC duro, insomma ci sono tante cose, un anello da poter rinforzare, quell'anello che c'è già dove mantiene lo stilo centrale, ecco. Giusto che siccome è andato lì, oppure glielo fai a imbuto, no? È entrato all'interno, le fai praticamente l'anello a imbuto, in modo che prenda anche 10-15 cm di radiale, proprio dove c'è il mozzo, e quella è una cosa che va bene fare. Chiaramente devi far fare al tornio, una cosa fatta bene. Per rinforzare quel pezzo lì, visto che ti si è rotto, fai il rinforzo lì, capito già? Tutto qua. Vabbè, comunque l'importante è che vada bene, cioè questa sia una buona antenna, questa che hai montato, ma si è mai detto che è uguale all'altra, problemi non ce ne sono. A questo punto non è che ci siano molti discorsi da fare. Avanti, riprendi. Ok, molto bene. Ascolta, cambiando discorso, non è che per caso hai qualche capsula originale però, di quelle rotonde, non molto grandi, di MB+5, di qualche microfono simile, per cambiare, sostituire al microfono dell'iGain, che praticamente è mezza esaurita, la modulazione non è molto forte, capito? Quello, il microfono del Pony. KQSL, no, non ci sta, capito, non ci sta quella del Tranne più 2, neanche quella del Tranne più 3. Ci sta giusta quella dell'MB+5 originale, quella che tolgono dall'MB+5, dall'MB+4, per poi mettere quelle piccoline, verdi, marroni, celesti, cioè grandi cagate che comunque. Io ce li ho originali, i microfoni, e li tengo così. Me ne serve un'altra di quelle per sostituire al microfono della Gain, capito? Tutto qua. Vabbè, vedrò di mettermi in movimento se riesco a trovare qualcosa. Va bene. No, già ne ho di capsule, però sono tutte capsule ceramiche. C'ho qualcuna dinamica, però no, non vanno bene a quel tipo di microfono, già capito, per quello sto cercando se trovo una capsula originale dell'MB+4, l'MB+5, no, quelli che sostituiscono, che fanno, che modificano, tutto qua, a te. Questo microfono della Gain è sempre buttato dentro l'armadio, nuovo. È un peccato, però la capsula non dà molti segni di vita, capito? Sì, funziona, esce, però al massimo del Mickey Game praticamente non è che finge molto. C'è un abisso tra accesso agli altri microfoni, capito? Per quello te lo sto dicendo. Beh, vabbè, già la trovo, dai, non è un problema, tranquillo che non è un problema. Va bene, Gianni Capri, dai, sono le 11, io stacco perché mia figlia domani deve andare al lavoro, quindi si deve alzare presto, sennò qua mi sente dall'altra parte del muro. Ok, grazie delle due chiacchiere, grazie dell'info, e grazie anche per i complimenti a questa radio, vedrò di tenerla, di custodirla nei migliori modi, sono contentissimo perché è una radio funzionante, è veramente come si suol dire molto molto rara, non è che la trovi tutti i giorni questa, perché è una radio militare, quindi non è come i vintage che trovi su internet e compro, vendo e scambio, questa è molto rara, quindi me la devo tenere conto. Adesso domani adesso la stacco, domani la porto a Roberto, vediamo un po' di trovare un colore simile militare, la faccio riverniciare tutta a nuovo, così ce l'ho. E poi niente, il microfono è nuovo, il cavo è lungo, sarà 1,50 m, quindi ho molta dimestichezza anche nel spostarmi, posso stare in piedi lontano dalle radio, niente, è come che stia facendo una telefonata. Va bene, dai, ci aggiorniamo domani comunque, ci aggiorniamo domani, oh Gianni. Dai, saluti a Claudio, a Franca, e poi già ci vediamo magari a prenderci un caffè, ok? Grazie Gianni, dai, ci aggiorniamo domani. Ok, un saluto circolare a tutti quelli che stanno ascoltando sul canale 10. Ciao ciao, buonanotte a tutti.